ho detto tutto quanto ho scritto. Metti sotto quando vieni a letto, canta e cambia il mondo, tu che sei stupendo. Che io insisto a fare quel che posso. Chi l'ha detto che sei? Sono quello che sai. Ti manca un pezzo, so che so stonare, so di fare andare. Tacca, banda, vienimi a trovare. Sentilo, suonalo, o ballaci sopra solo rock and roll. Sì, va bene, che gusto. L'han detto anche gli stone, ma è troppo presto. Solo rock and roll, solo in fondo del rusco. L'han detto anche gli stone, solo quello che è. Gino, sposta il tuo destino, te l'han dato quasi chiavi in mano, ma la direzione non è in una canzone, e anche adesso faccio ciò che posso. Chi ha detto che sei? Sono quello che vuoi. Hai perso un pezzo, io c'ho l'ampio acceso, tu le tue pretese, giuste o no, io parlo le mie cose. Prenditi, o ballaci sopra solo rock and roll. Sì, non è ma che gusto. L'han detto anche gli Stones, non è mai troppo presto. Solo rock and roll, però non è nel senso. L'han detto anche gli Stones, solo quello che è.